Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale. Anche oggi vi suonerò qualche storia. Danziamo l'amore. Volevo salutare tutti quelli che domenica parteciperanno al compleanno emotivo di Pierino, al Freak. Yippee! E dedicargli una bella cassa che scassa, perché ci fracassa. E questo è chiaro. Tomma da Allocate Varesino. Il vostro pensiero, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Gigio, alle due con la tua musica danzerella balla pure la bidella. Le rime c'erano, andava bene. Potresti suonarmi un bel lento violento? Certo. Conze da Settimo Milanese. State ascoltando una musica bella da ballo e io sono Gigi D'Agostino. E chi si è sintonizzato adesso è bene che sappia che sto suonando io. Una musica che sale dai piedi fino al mento. Mento, Gigi D'Agostino. È lento, violento, lento, violento. Simone da Sanremo. Il cammino di Gigi D'Agostino. voglio la cassa che mi scassa. D'Agostino, una grande famiglia danzante. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare al ritmo del lento violento. Il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, voglio fare gli auguri di buon compleanno alla mia dolce mamma e ringraziarla perché ogni giorno ti registra, visto che io alle 2 non ci sono, e così mi permette di ascoltarti. Grazie. Domi dalla Sicilia. Parco divertimenti numero 1 in Italia riapre il 31 marzo con tantissime novità per un divertimento allo stato puro. Più di 40 attrazioni, spettacoli con artisti provenienti da tutto il mondo. Time Voyagers. Un nuovo viaggio multisensoriale alla scoperta di un mondo misterioso. Preparati a varcare i confini dell'ignoto. Gardaland, il parco divertimenti numero 1 in Italia. Comincia il viaggio dal 31 marzo. È il cammino del Gigi D'Agostino. Frequenza è codesta e la musica pesta. M2O, mica una radio a capocchie. Gigi, grazie per le emozioni che mi hai dato sabato sera. Francesca. Gigi Sagace, la tua musica ci piace. Mi piace. Abby. Body cassa. Stefano saluta con una pennellata e un colpo di martello Denise da Milano, Marlene di Roma. Distrarre sto mixando. Non puoi dire alle foglie di stare ferme in eterno. No. Non possono, c'è il vento. Non puoi dire alla luna di rimanere in eterno. No. Non può. No. C'è il sole. Non puoi dirmi di non voler bene, perché ci sei tu. Ti voglio bene, Max. Francesca di Torino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Domani sera, sabato 31 marzo 2007, ore 22, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca La Fattoria, Capriolo, Brescia. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica, musica. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, musica che unisce. Gigi D'Agostino, musica, musica. Gigi D'Agostino, musica che unisce. Se vuoi emozionarti, devi sintonizzarti. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Sisto da Cremona. Vorrei dedicare Gigi's Love a te e dirti grazie di esistere. Il successo non è definitivo. Il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti. È vero, è vero. Daniele di Rovigo. Grazie Gigi per tutto questo. We'll be right back. spazio. Alle 2 del pomeriggio suona Gigio. Hai visto, alle altre parti fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Ecco qua, va. Far sentire il vostro pensiero, mandatemi il vostro SMS al numero 333 64 67 662. Ha detto: ma come fa a piacerti quella musica? È ripetitiva. E io le ho risposto: anche tu sei ripetitiva, ma mi piaci lo stesso. Anonimo. Bella questa cosa, forza. Gigi, grazie a te ho conosciuto Matteo, il mio amore. Con l'uomo sapiente ci siamo dati il nostro primo bacio. Poco, molto poco. Fammi ricordare quel momento. Ma Sabrina. Io so poco, ma penso tanto. Ma so poco, molto poco. Anzi, niente. L'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco. Anzi, niente. L'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. E nella successione dei fenomeni. Tanto, poco, niente. So molto poco, anzi sì, niente. L'uomo saliente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo saliente è fino. L'uomo fino. E come Aristotile, Totile, chiaramente le figure. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dei fenomeni.

Gigi D'Agostino. Benvenuti nel mondo che non c'è. Gigi, volevo ascoltare Movimento e dedicartela, perché grazie alla tua musica anche al lavoro non sto fermo un momento. Sempre con te, Luigi da Torino. Dag è un suono puro, col suo tamburo stai sicuro. Domenica pomeriggio, 1 aprile 2007, ore 15, Officina Emotiva, con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale, presso la discoteca Freak, Grandate, Como. M2O, mica una radio a capocchie. Sei grande, Gigi. La tua musica mi rende allegro e pieno di energia. In auto ho messo anche il subwoofer. Fammi ascoltare la passione. Nicola da Catania. Baby, just come to me. Come with my heart to die. Swinging my soul. Mandami quella col sax. Per Laura, che è speciale e non lo sa. Guarda che ci tengo, eh. Sì, non è che siamo qui a piantare piselli. No, perché... Ciao, maestro. Tom da Bologna. Da Udine. Voglio salutare il mio amore Valentina. Il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi, sono Angela. Ho 55 anni. I miei figli mi hanno attaccato la Gigi mania. Per favore, dedicami un brano. Sì. Un bacio al piccolo Alessio da parte dei suoi nonni. Francesca di Brescia e dirle che sono sicuro che sabato ce la farà a esserci alla fattoria. Certo. Ti voglio bene, Franci. Davis da Milano. Ho fatto un sogno di quelli strani. Guardavo un cielo pieno di mani, mani che cercano di costruire un mondo nuovo che possa unire, mani che pensano, che vogliono dire che non sognavo nel mio dormire, ma che era un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Gigi, oggi mia madre compie 50 anni. Falle i tuoi auguri. Auguri. Elena. Grazie Gigi per l'amour toujours, perché il 18 marzo ho pianto con la tua canzone più bella, abbracciato alla mia Vale. Tony il Mac dal forum gigidagostino.com. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Sperando di poterti vedere a Rimini, dedico l'amour toujours alla mia amica Nunzia. Gigi, sei unico. Elena. Gigi D'Agostino. Di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. I'm falling in like a go-go, need your love to feed my baby soul. Dreaming in like a go-go, what is love to teach my babe so? And I drive for my whole life to grow my babe so. To grow my babe so. Falling in like a go-go, need your love to feed my baby soul. I'm dreaming in like a go-go, what is love to teach my baby soul? And I try for my whole life to grow my baby soul. like a go-go. Need your love to feed my baby soul. I'm dreaming in like a go-go. What is love to teach my baby soul? Volevo dedicare quella meravigliosa passeggiata sulle note di Clocks al mio amico Monte, che ogni giorno ci ascolta dalla sua officina. A Pasqua sarà dei nostri per il suo primo live di Gigi. Fai che inizi il viaggio più bello della sua vita. All'Alcatraz, è stato da urlo. Matteo da Firenze. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Domenica sera, quella di Pasqua, ci incontriamo a Rimini, presso la discoteca Altro Mondo. Io suono dalle 22 alle 2 e altre storie. Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ciao Gigi, mi fai ascoltare Storiella? È troppo bella. È vero, è vero. Greta da Sondrio. Lontano, non sento più niente, si svuota la mente. Non so se respiro il buco, l'ozono, ma voglio capire, sapere chi sono. Chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono. Ho fatto più spazio, qualcosa di buono. Ora può urlare, danzare il mio suono. Qualcosa da dire alla gente sulle pareti della mia mente. Inciso per bene sui muri del cuore. Chi balla non muore, fa bene l'amore. Questo lo penso, lo dico, lo scrivo. Ora lo ballo, così me lo vivo. Suono nel tempo. Donano vita e colpiscono in centro. Anche i rumori se suonano a tempo. Lo ascolto per l'amore. Se non ti piace così la storiella, scrivila tu, magari più bella. Se non ti piace così la storiella, scrivila tu, magari più bella. Magari più bella.